14:45, venerdì 17 di aprile, siamo al miliardesimo giorno di quarantena e per fare un piccolo dispetto a quel gran compagno di Lorenzo iniziamo a reccare ben prima che inizi la trasmissione, così dovrà farsi più lavoro nel podcast. In realtà facciamo questo soltanto per poterlo ringraziare ancora una volta di tutti gli sbattimenti che si è fatto per portare qui da noi il suo progetto fighissimo di radio, a cui finalmente stiamo partecipando in tante e tante. Grazie Lorenzo, fai un sacco di cose per noi, ora però magari vai un po' lontano, insomma, dove vuoi. Lasciamo adesso finalmente i Buddy Beetroots con la loro traccia e dopodiché inizierà la zoomata, con un po' di calma magari, inizierà la zoomata insieme al nostro compagno Melmo dall'Uruguay e il dottor Cesa che parla invece da casa sua. A tra poco! We'll be right back. E allora ringraziamo i Bloody Beetroots che ci hanno regalato un po' di ottima musica, li ringraziamo anche a nome di Lorenzo che li apprezza, li stima e li vuole molto bene. Noi a questo punto mettiamo in pausa il deck di destra del nostro mix perché è iniziato il collegamento. Facciamo una prova con i nostri amici che ci parlano da Paraguay, dall'Uruguay, e da casa loro. Quindi ciao Cesa, ciao. Ciao Melmo. Ciao. Ciao. Speriamo che si senta bene, chiaramente, se qualcuno mi sente, ci sente in questo momento, è pregato di mandarmi un messaggino per confermarmi che non sta facendo cazzate alla conduzione. E va bene, a questo punto lascio pure la parola ai nostri due fantastici ospiti e conduttori. Io mi ammutolisco il microfono prima di generare fischi orripilanti e basta, però mi sentirete più avanti per gli stacchi musicali ed eventuali domande. A voi. Caro Guglielmo, ti chiedo soltanto se hai messo la registrazione per poi avere il podcast della puntata. Ebbene, caro mio, non mi cogli impreparato almeno questa volta perché siamo già in registrazione da prima che iniziasse il collegamento, perché so che se mi troncavano le ditina qua in redazione se non facevo partire il rec. E quindi prego di nuovo. Quelle cazzate di prima di trasmissione. Esatto, non c'è sentito nessuno, ma forse sono registrato lo stesso. Prego, a voi. Beh, allora, arriva venerdì pomeriggio di questa Quarantine Life e quindi arriva anche quest'oggi la puntata di diretta dal Nuovo Mondo col nostro inviato speciale a Montevideo. Come va, Melmo? Tutto bene. Siamo qui. Non è data di molto la situazione in verità qui nello specifico, quindi per adesso si continua in questa grande pausa, diciamo si continua nella stessa monotonia di sempre, senza scuole, senza eventi, senza concerti, con poche attività aperte, però tutto sommato tranquilli. Ok. Quindi non ci sono grandi cambiamenti sul numero di contagiati, il numero di decessi lì in Uruguay, quantomeno? No, diciamo niente di... No, qui in Uruguay non c'è nessuno scoppio, non c'è stato uno scoppio e non sembra essere preoccupante per adesso la cosa. Quello che sì, si sta parlando di iniziare appunto... secondo me prematuramente, però il governo sta iniziando a pensare a una riapertura parziale delle scuole di alcune attività. Chiediamo scusa, ma purtroppo ho ricevuto la telefonata. Per non rimanere bloccato. Ragazzi, chiedo scusa, ho ricevuto la telefonata sul telefono. La situazione è quella, ragazzi. Potete ripetere gli ultimi 30 secondi. Ok, no, chiedevo almeno com'era la situazione lì, nel senso che il numero di contagiati e di decessi fino all'ultima volta che ci siamo sentiti era abbastanza ristretto. Mi chiedevo appunto se era così ancora o se era cambiato qualcosa. E ora ci sono poco più di 400 casi, quindi un centinaio in più della ultima volta che ci siamo sentiti, e circa 10 morti, mi sembra di capire, tra cui una bambina molto giovane che è morta purtroppo e ha delle complicazioni, anzi vabbè, anche con il tema di cui parleremo dopo, era una ragazzina di 12 anni che era portava avanti una lotta con la sua famiglia per l'uso dei cannabinoidi per la cura dell'epilessia e di varie patologie che teneva, regresse, ha avuto degli ottimi risultati, era riuscita a lasciare un sacco di farmaci, era intervenuta all'Expo Cannabis, all'incontro qui che si fa sulla cannabis annuale, e purtroppo è morta perché di coronavirus per via delle complicazioni che aveva, okay, delle altre malattie che aveva. Insomma, era una ragazzina di 12 anni, quindi insomma questo è il dato più tragico. Però non ci sono situazioni come per esempio quelle dell'Ecuador che dicevamo l'altra volta con il sistema da crollato, o il Brasile, di cui l'altra volta vi dicevo che la crisi aveva innescato una crisi politica, e questa crepa si sta allargando ancora di più, sempre più drasticamente, appunto che oggi, giusto qualche ora fa, il Bolsonaro ha licenziato il suo ministro alla salute, perché stava prendendo le misure, stava consigliando la quarantena e l'isolamento, e i vari ministri statali, diciamo, c'è un forte conflitto in questo momento tra tutte quelle camere, il presidente che è sempre più isolato conta ancora su un appoggio sorprendentemente alto vista la situazione della popolazione, però comunque sia sicuramente in crisi rispetto all'inizio. Ok. Per questa, quello soprattutto, la, anzi, una cosa interessante anche parlando della questione del NATO che dicevo, che, di cui si parlava prima della trasmissione, in Brasile pare che in alcuni quartieri, in alcune favela, i narcos stiano imponendo una quarantena, stanno gestendo loro, diciamo, la quarantena e l'isolamento obbligatorio perché per l'assenza dello Stato, diciamo. I narco intesi ovviamente come le organizzazioni criminali, sono paragonabili a famiglie mafiose nostre in certi paesi della Sicilia, claro. Quindi sì, hanno tutto il connotato criminale, però hanno anche sicuramente un contatto di contatto con il territorio e in qualche modo è anche nel loro stesso interesse di controllo del territorio prendersi cura in qualche modo della certo, si diceva anche della comunità. Insomma, anche in Italia si dice che soprattutto al sud, se la situazione dovesse protrarsi per tanto tempo e la situazione economica dovesse peggiorare drasticamente, si diceva appunto che il crimine organizzato, le mafie, che hanno disponibilità di liquidi quasi infinita, potrebbero essere a, diciamo, usufruire di questa cosa per distribuire beni, cibo e via dicendo, qualora appunto le persone... è certamente probabile, possibile. Comunque, purtroppo, beh, diciamo è che... possibile effettivamente... no, niente, diciamo che lì... Sta succedendo in altre zone. Esatto, in altre zone dell'America Latina, ma fortunatamente non lì. Diciamo che non rispetto qui, alla qui. Situazione che stiamo vivendo noi... La vostra lì nel paesito è molto diversa. No. È molto tranquillo. Anche grazie al fatto di quello che è successo lì. Nel senso che, appunto, come si diceva, sono paesi con una forte attenzione sull'Italia, perché molti, sull'Europa in generale e sull'Italia in particolare, l'Italia e la Spagna, per questioni familiari, anche di molta gente che vive lì o discendenza. E quindi... sono state prese misure comunque molto molto prima, soprattutto per esempio in Argentina sono state prese misure molto preventive. Adesso da qualche da un paese anche c'è il coprifuoco totale in Argentina, e questo tra l'altro in una situazione già di fortissima crisi, perché l'Argentina arriva in una situazione di inflazione fortissima, di svalutazione del peso argentino molto forte, della crisi innestata dalla presidenza di Macri, da un cambio di governo, e quindi diciamo che paradossalmente pare che la situazione della crisi sta permettendo comunque all'Argentina di poter giocare più radicalmente, nel senso che, come si dice, avendo poco da perdere dal punto di vista dell'industria, sta prendendo delle misure comunque di più drastiche, nel senso gli imprenditori hanno meno punti di forza, diciamo, da poter fare contro il governo per la riapertura delle attività, certo. Perché di fatto l'economia sta andando talmente male che non per noi c'è un governo popolare, appunto il peronismo, per quanto si può essere d'accordo o no, ha sicuramente una base popolare fortissima, e l'appoggio dei sindacati, l'appoggio di buona parte della società civile, certo, della... Insomma, che è proprio il contrario di quello che sta succedendo qui, perché è di, non so se ieri o l'altro ieri, la dichiarazione del nuovo presidente di Confindustria che si è, diciamo, scagliato contro il governo e contro i sindacati, dicendo che sono andati giù troppo duri con gli industriali e siamo nel paradosso in cui le regioni del nord governate dalla Lega, che sono quelle più colpite in assoluto in Italia, sono i vari governatori hanno detto che sicuramente il 4 di maggio riapriranno tutto, addirittura il Veneto oggi Zaia ha detto riapriremo prima perché si stanno riducendo i contagi. Insomma, noi siamo in questo paradosso in cui nelle residenze per anziani hanno fatto il conto dei morti e ci sono 6.000 morti in più No, ci sono 6.000 morti nel mese di marzo nelle residenze per anziani in Italia, che però si dice no, va tutto bene, riapriamo prima, perché stiamo tenendo forte. Diciamo. È una situazione brasiliana inversa. Sì, diciamo. C'è una situazione inversa, c'è il governo che vuole tenere chiuso e le forze locali che vogliono riaprire. Sì, cioè in realtà gli industriali... Vabbè, in Brasile sono le forze locali che vogliono chiudere. Le forze regionali che sono chiaramente appoggiate dai padroni dall'apparato industriale. Sì, esattamente. Le regioni, non so come dire, mi sembra... Vabbè, sì, il contesto italiano poi sappiamo che è molto differente appunto dalla situazione americana. Sì. Purtroppo e per fortuna, nel senso che c'hai i suoi pro e i suoi contro. In una situazione come questa è quasi più purtroppo, perché l'assenza comunque di almeno di facciata di movimenti popolari, di un discorso popolare, rende molto difficile la gestione, una gestione non elitaria della crisi. Quindi per esempio il fatto che c'era l'altro giorno, sentivo il discorso qui del presidente dell'Uruguay, il presidente del centrodestra, del più di destra degli ultimi decenni, e nonostante questo, se i suoi discorsi mi sembravano discorsi che la sinistra in Italia, quindi sì, dobbiamo fare attenzione ai più deboli della nostra società, però comunque sia in verità sì, però una riapertura parziale, sì, però certi settori statali, sì, però, quindi insomma in Italia è ancora messo peggio perché la politica ha molta poca importanza. In Italia politica il 90% dei casi è... Mentre prima si diceva che la guerra è il continuamento della politica con altri mezzi, la politica italiana è il continuamento dell'economia per altri mezzi, mi sembra. Sì, bravissimo. Poi diciamo che... Non è più politica. Chiedo scusa, intervento a gamba tesa soltanto per fare un complimento vivissimo alla citazione sopraffina del Mene. Madonna, che livello, che batti cuore. Si vede che hai fatto la scienze politiche statale, si vede. Ah, comunque volevo dire che nel nostro piccolo, diciamo nella realtà quotidiana che ci troviamo a vivere a Zam, nella periferia sud di Milano, possiamo dire che la politica è totalmente assente dalla nostra, cioè nella nostra percezione, tanto che ci sono cittadini e cittadine, sì, che si mettono in prima linea per fornire assistenza ai più sfortunati e alle più sfortunate, che iniziano a non avere più soldi per fare la spesa, e quindi insomma ci sono tanti e tante solidari, certo, che portano i pacchi alimentari, sì, infatti, nelle case. Infatti è sbagliato dire la politica partitica, perché sì, la politica in verità... Per fortuna in Italia, appunto, non saremmo qui a fare la radio senza la politica. Madonna, che emozione. Comunque diciamo che la politica partitica e istituzionale dovrà rendere conto poi di tutte queste cose che stiamo facendo. Ma io vi dirò di più. Sì, la speranza è quella. Ragazzi, c'era un famoso poeta, che diceva che la delega altera la percezione. Voi ne sapete qualcosa, per caso? Ma proprio si sprecano citazioni. Ma proprio una citazione perenne, comune, continua. Scusate, le mie incursioni sono per dire delle cose a caso, basta. No, era un poeta moderno, un poeta del rap, diciamo. Dopo questa polemichetta quotidiana esatto, sulle frequenze di radio ZAM, Nelmo, cosa ne dici? Io forse farei partire la canzone che introduce al tema di oggi. Che ne dici? Sono d'accordo. È una canzone di... d'accordo. Beh, non è vero. Vai, se vuoi introdurre tu il pezzo, Melmo. Questo è Cypress Steel, Dr. Grintham, dedicato a tutti i culti ETA. Ed eccoci qua, pronti, facciamo partire la canzone e alziamo volume. Buon ascolto, a tra poco. Hello. trees are constantly grown. Somebody give me the right to cut drones. I'd like to stop, but it feels so good. Runny plants sticking up my whole neighborhood. DEA never wanna leave green alone, but never ever ever got a warrant for my home. What that funny sound knocking at the door? Sorry, green thumb, can't talk no more. Please don't follow me into the sun. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is rilancio subito. Okay. Chiedo scusa agli ascoltatori e ascoltatrici, mi abbasso il volume. E chiedo scusa, ma la traccia era così piacevole, la chiacchierata con i nostri due amici in collegamento così bella che mi sono distratto. Ci siamo distratti e quindi il pezzo è finito tutto d'un tratto. I sei pressi possono andare. Grazie ragazzi dei Cipressi, tornate presto, siete simpatici, voi ci state molto simpatici. Dottor Green Thumb, allora, mi pare di capire, anche se non sono uno che ne mastica di inglese di cose da gente che ama la marijuana, che qui si sta parlando di troca. Quindi ora lascio la parola della gente che non ha mai fumato in vita sua, e ricordiamo a tutte le forze dell'ordine che tutti quanti qui parlano eventualmente di ganja soltanto per sentito dire, tranne Melmo, che è in un paese, lui che è legalitario. Lui. Devo fare devo fare un piccolo outing. Devo dire che io qualche volta, raramente, quella al CBD l'ho provata. Ah, ok, va bene, ma va bene perché è legale. Va bene perché è legale. C'è qualcun altro qui dalla piccionaia dello studio che parla dal profondo delle sue cuffie. Birichini. Vi dà dei birichini, va bene. Allora, prego, parlateci voi di questo sogno fatto realtà, ovvero la ganja di Stato. Ok, la ganja di Stato, nel senso che in Uruguay, forse, correggimi bene se sbaglio, forse è l'unico paese al mondo in cui la coltivazione, la distribuzione e la vendita di marijuana è statale. Sì, ricreativa sì. È diciamo che l'Uruguay, appunto nel 2013, ha approvato questa legge per la liberalizzazione e la messa sotto controllo dello Stato di tutta la filiera produttiva della cannabis ricreativa. Questo cosa vuol dire? Che lo Stato ha selezionato delle genetiche, determinate genetiche, che fornisce a determinati coltivatori autorizzati, coltivano per lo Stato un prodotto che a un prezzo ridotto di meno di un euro al grammo, sostanzialmente, viene venduto in farmacia a qualunque cittadino o residente che si registri per andare a comprarlo. Non è l'unico metodo, diciamo, questa è la vera differenza rispetto, per esempio, al modello olandese o spagnolo, dove, okay. Mentre i modelli europei, soprattutto le esperienze di legalizzazione fino ad ora, erano soprattutto di tipo di depenalizzazione e di liberalizzazione, quindi si apriva un mercato nuovo in determinati spazi, con determinate regole, però lo Stato non interveniva direttamente, non veniva permesso alla gente di poter fumare per strada, nei parchi, di coltivare molte volte, a parte in Spagna per esempio, però per esempio in Olanda è un mercato molto restrittivo, anzi se coltivi sono delle pene molto alte. in Spagna la vendita affidata comunque a privati. Qua diciamo si è voluto fare il discorso di metterlo sotto il controllo dello Stato, perché da un certo punto di vista non si vuole fare creare mercato il turismo cannabico. Okay. Lo scopo non era quello, non si vuole un turista che viene qui, in verità ha molte difficoltà a trovare e comprare ganja, diciamo, per strada, arrivando dal nulla. Sì, ma per una questione, che molte volte la gente che viene qua viene d'estate. L'estate è il periodo dove chiaramente c'è meno. Certo, perché si raccoglie in autunno, quindi d'estate. Perché si raccoglie in autunno, finiscono. Si raccoglie in questo periodo, marzo-aprile. E devi considerare che mentre tipo in Italia, per esempio, l'Italia non è un mercato, la cannabis, il tabacco, erba, non è un mercato che viene prodotto in Italia. È tutto fumo, erba che viene da fuori, da altri posti. Certo. Mentre che qui tutto quello che si consuma viene coltivato qui, perché sicuramente dal Brasile non arriva, dal Brasile o dall'Argentina, nel senso qua c'è la possibilità di coltivare legalmente, di comprare legalmente dallo Stato, coltivare legalmente, coltivare collettivamente legalmente. Quindi noi siamo tutti d'accordo, vogliamo coltivare, non abbiamo lo spazio per farlo. Ci costituiamo come associazione civile, decidiamo uno spazio e coltiviamo sostanzialmente tutti assieme lì. E questa è una cosa molto bella, per cui per esempio io lavoro ogni tanto in un club, in uno dei 130 club cannabici dell'Uruguay. E che cosa vuol dire? Che tutto lavorano i soci, le stesse persone che lavorano nel club sono anche i soci del club. Quindi sono poi gli usuari dell'erba che vanno a produrre. Quindi non sei motivato dai soldi che fai, diciamo, sei anche motivato dai soldi, però c'è anche il fatto che tu stai lavorando per avere il prodotto migliore che poi andrai tu stesso a consumare. Certo. E questo è, secondo me, è una roba importantissima. Ovviamente è una roba molto dell'Uruguay, di un posto molto piccolo, molto locale. Non so come dire, ovviamente in un posto, immagino una situazione del genere a Buenos Aires, ovviamente prenderebbe delle dimensioni diverse, per una questione numerica, per una questione certo. di dinamiche, diciamo. Ma no, mentre facevi un paragone con la situazione ad esempio dell'Olanda, secondo me l'Olanda è un po' estremizzata dalla parte opposta, però mi viene da dire sì. Che in Olanda la marijuana è, come dire, un prodotto in più per un sistema di mercato liberista, assolutamente, che appunto viene consumato da dei consumatori e viene prodotto in maniera tale da essere consumato sempre di più. Non so come. Assolutamente. E viene prodotto industrialmente, ossia la differenza è che quella, non essendoci l'attenzione, quella che dicevo adesso rispetto al prodotto. Insomma, lui e in un'altra maniera che ha per il club, a livello di nutrienti che gli dà, a livello di materiali che usa. E quindi se tu vai a vedere, per esempio, è molto facile, vedi la differenza nel guardare il fiore, non so come dire, che sono in Olanda sono fatti in serie, che sono tutti perfetti, grossi, compatti, non c'è spazio qui, hanno i nutrienti con i microrganismi mettendoli a mollo nell'acqua per mesi, è tutto assolutamente biologico, cioè, la legge stabilisce che deve essere tutto biologico. Okay. Quindi è diverso proprio il tipo di produzione e di prodotto che viene fuori, per cui qua per esempio non troverai la Amnesia Haze della Mellow Yellow di Amsterdam, che fai un tiro e fai a terra. Trovi più come è effettivamente un trovi per un'erba che la fumi e ti lascia minimamente il raspo in gola, è assolutamente leggerissima, non so come dire. alberisti, e di gente che arrivano a milioni un anno per comprarlo da tutto il mondo, è una produzione serrata come se fosse questa si producendo birre. Quello, la differenza tra Pico Brew e per fare un po' di pubblicità comunque supporta alla birra Peroni, nel senso, con tutta la buona volontà che ci può mettere il signor Peroni, non potrà mai produrre la stessa quantità di birre della birra Peroni con la stessa qualità di uno che produce birre artigianale. Certo, esatto. E quindi diciamo qua l'idea è, invece di avere le birrerie con tutte le stesse cose, qua sono tantissime birrerie artigianali, quindi tutti hanno cose diverse, coltivati con metodi diversi, di un sacco di differenze. Certo. Ed è un mondo in sviluppo, perché è un mondo che non esisteva fino a in America Latina, non c'era un'Olanda. Noi comunque il mondo canabico italiano, europeo, aveva delle referenze, l'Olanda, Cristiani, aveva dei posti dove comunque si sviluppava. Sì, sì, certo. Un tipo di... Non c'era niente, non esisteva il fumo, le stazioni, l'idea del CBD, dei medicinali, l'olio. È tutta una roba che esplodeva adesso negli ultimi 15 anni, 10 anni. Ma se posso fare una domanda? Ma... Qual è la storia della legalizzazione della marijuana di Stato in Uruguay? Cioè, come è successo che sei arrivato a legalizzarla? Allora, la verità, la situazione già da prima era molto tranquilla. Nel senso che il consumo non è mai stato proibito di nessuna sostanza, in verità, tuttora. Il consumo di nessuna sostanza è legale in Uruguay. Era legale la produzione... La vendita, la coltivazione, la vendita, diciamo, se ricadeva dal cielo tu potevi anche fumare per strada ed è tranquillissimo, però teoricamente doveva cadere dal cielo, non potevi comprarla, non potevi venderla, non potevi coltivarla in nessun modo. E questo fatto è stata una presa di posizione, poi la gente è iniziata ad essere un movimento comunque un posto molto liberale, molto progressista da sempre, quindi la gente ha sempre fumato, un posto molto, non so come dire, con spazi molto aperti, molta gente che vive senza controllo, non c'è molto controllo da parte dello Stato letteralmente sul territorio, e quindi molta gente ha sempre coltivato anche da prima, non a Montevideo magari, però fuori assolutamente sì. Come in Cile anche si fa, per esempio, sono posti dove c'hanno talmente tanto spazio che molta gente, c'è il problema di arrivare a parte una piantagione e nessuno magari ci passerà in quel punto per un anno. E quindi di fatto ad un certo punto il governo ha deciso semplicemente di prendere atto di una situazione che già c'era e di evitare che la gente che già fumava, che già consumava, fumasse cose, il paraguay, cioè si chiamano, prodotti di qualità scadente e pericolosi anche potenzialmente, per il taglio, per le sostanze che vengono messe, e ho fatto anche solo per dei funghi e delle muffe che si creano per il malo trattamento, non so come dire. Sì, sì, cioè che vengono conservate in maniera non idonea. Sono conservate male, ci sono delle muffe, alcune muffe possono essere pericolose, certo, perché creano sostanze tossiche per combustione. Ma... E quindi si è preso atto della situazione. Ovviamente c'era al governo, c'era in quel momento Mujica, e la cosa è stata presa in un senso che è fortemente statalista, fortemente repubblicano, e da quel punto di vista, e quindi ovviamente è stata fatta da un punto di vista statale, quindi non è voluta essere il modello coffee shop. Le sue parole sono state: non è un viva la peppa. Non è un? Non è un viva la peppa. Ok. Ok, ma senti, ho una domanda da farti. Sì. Visto che molti dei, diciamo, delle persone pro proibizionismo, una delle argomentazioni che hanno è: una volta che si legalizza, i consumi cresceranno tantissimo e diventeremo un popolo di drogati. Ma ti volevo chiedere, diciamo, partendo dal presupposto che l'Uruguay è, diciamo, un caso particolare, nel senso che quando sono venuto a trovarti, io ho visto che il popolo uruguayo è un po' un popolo di fricchettoni, detta terra a terra. Cioè che parte del popolo, sì. cioè, buona parte, che, sì, che quando c'è il tramonto sulla Rambla, sulla strada, sul mare, la gente applaude, ma tutti applaudono, dagli 0 ai 99 anni, cioè come i giochi da tavolo praticamente. Quindi partendo da questo presupposto, che comunque sono un popolo particolare, io volevo sapere se da quello che ti dicono magari i tuoi amici che hanno vissuto la situazione prima e dopo, se c'è stato un effettivo aumento di persone che fumano o persone che già fumavano che hanno iniziato a fumare di più, secondo te? È difficile, perché chiaramente non c'è un tipo di una conta ufficiale. Certo. E io stesso non ti saprei dire passare dall'Italia qua mi ha portato a fumare di più o di meno. Sicuramente ha aumentato la qualità e la coscienza sul consumo, e quindi probabilmente mi viene da pensare, non so come dire, conosco molta gente in verità qui che ogni tanto, cioè in Italia mi capita meno, la più gente che fuma è gente che non fuma. È più difficile trovare la gente che tra le tante cose ogni tanto, se tu stai fumando, si dà un tiro, però che non, come dire, qui è una roba che è molto più normalizzata, ma anche con i genitori, col, non so come dire, con gli adulti, non è una roba neanche dei giovani generazionale, è una roba che io vado a una grigliata con i genitori di un mio amico, fumiamo tranquilli, veramente fumiamo tutti assieme, però non è un consumo, non so come dire, lo stesso consumo non è, io che mi trovo con un amico al parco, magari siamo in 3 o un 4 e innanzitutto si fuma, appunto, quando senza tabacco si fuma, magari sì, fai uno spino da un grammo e mezzo, bello abbondante come ne faresti te lì, però magari poi fai davvero 2-3 tiri, lo passi 2-3 tiri e ti dura tutto il pomeriggio. In Italia abbiamo più la cosa la raffica di sì. Sì, sì, cioè la... che, quando fumi non esiste che magari inizi a fumare uno spino, lo lasci a metà, lo riprendi dopo, te lo cioè, sicuramente c'è tanta gente, qui c'è tantissima gente che fuma tutto il giorno, cioè, ossia, che c'ha comunque in qualche maniera cannabinoidi in circolo abbastanza tutto il giorno. Però mi è capitato meno di vedere casi di abusi come di gente che dici questo ci sta sotto, diciamo. È capitato meno. Ho visto gente che ha detto questo è un personaggio particolare, però non per i fini. A me è capitato di vedere gente magari reintegrata nella società, non tipi o fricchettoni o gente lavoratori o gente normalissima in una situazione, io stesso in alcune situazioni fumi nervosamente quasi a una, cioè gente che si è abituata a fumare come per un nervosismo tantissimo, davvero tanto, che non è una questione però del quanto fumi nel giorno quanto c'è il vizio di fumare, per sì, cui certo, i tre spini che uno si fuma in seguito, tre spini, io magari mi fumo uno con la stessa quantità che ci metto dentro, però senza il tabacco, condividendo con i miei amici nell'arco di un pomeriggio. Non ho la necessità di doverlo finire perché ce l'ho in mano. È un consumo, secondo me, migliore. Non so dirti se è stato migliore o peggio, o diminuito. I miei amici nemmeno, perché quasi tutti quelli che conosco che sono interessati al tema, la gente che fumava prima e che continua. Certo. No, è interessante quello che dici, che magari è difficile dire la quantità, ma che sicuramente ora lì c'è un consumo più consapevole. Nel senso che Guglielmo sicuramente lo sa meglio di entrambi noi, perché l'ha fatto di lavoro, però in Italia, insomma, il consumo di droghe, tra cui anche la cannabis, il problema è che viene fatto in maniera non consapevole o non... gente, no? Io naturalmente di lavoro sono il consumatore di sostanze, sì, sia chiaro, certo. Diciamo chiaro a tutti. Giusto per dirlo a tutti e a tutte quelli che ci stanno, quello che ci stanno ascoltando, lavorava per la riduzione del danno, che sono degli educatori, delle persone formate e pagate per fare questa cosa, che girano per le situazioni sociali in cui è più frequente il consumo di sostanze stupefacenti, per informare le persone sul modo migliore per utilizzare queste sostanze. Sì, no, infatti, mentre parlavo a me, infatti vai. Mi veniva in mente che una delle cose su cui si discute più spesso quando si va nelle scuole è relativamente a un'altra sostanza, che è l'alcol, che guarda caso invece in Italia è permessa, che rappresenta un problema per i minorenni, perché si sviluppa quella che, riguarda caso, l'alcol, che è una sostanza legale per i maggiorenni, quando sei minorenne è illegale, genera la buffata alcolica, ovvero dato che io non posso bere nei locali perché costa troppo, non me lo permettono, o in altre situazioni perché non posso, in poche parole, bevo tutto quello che ho in pochissimo tempo. Questo significa che in brevissimo tempo ho un, certo, tasso alcolico molto alto che rovina stomaco. E qualunque cosa mi passi. Come? E qualunque cosa mi passi per la mano. Esatto, esatto. Senza nemmeno chiedermi che cos'è, da dove arriva, che se sto facendo bene o male perché sto consumando in una certa maniera o nell'altra. Ci sono ospiti in studio che mandano baci. E no, la questione è che la stessa cosa mi sembra che tu la stavi descrivendo col consumo di cannabis o di cannabinoidi in Italia, dove è illegale, per cui al parco non sto un pomeriggio intero col cannone in mano perché che magari passa la volante e mi ferma, me la schiumo tutta, per dirla come la dicono i giovani e le giovani, sì, e butto via, sì, perché sì, è un problema, sì. E magari c'ho, uno 0,5, lo divido in tre micro cannette 0,15, tra l'altro mando tre sigarette con un pochino, cioè è tutta una questione di, io la vedo davvero la relazione soprattutto dei ragazzini, perché non so come dire, io a un certo punto ho iniziato a lavorare, ho iniziato ad avere i soldi miei, ad avere i miei amici, non so come dire, ho vissuto meno problematicamente la questione dell'avere o non avere da fumare o vivere da fuori, però prima davvero io analizzavo a posteriori, come vedevo prima, vedo molte cose della tossicodipendenza di qualunque altra sostanza con la marijuana, che qua non vedo. Non so come dire, il fatto di girare per il parco cercando ad agosto la persona che ha il fumo da vendere, o di indebitarsi, di arrivare a fare davvero rubare i tuoi amici, nel senso di magari comprare poi rivendere un po' più alto, fare la magagna, questa, che sono cose che sono proprio brutte, non so come dire. Qui per esempio dicevo, è molto difficile comprare, soprattutto nel periodo in cui c'è poco, ma non è difficile trovare. Qui è molto facile che tu vedi persone che fumano per strada, gli chiedi scusate, da vendere, dice no guarda non c'è da vendere, e ti regala un fiore, ti regala l'ostino che sta fumando, si mette a fumare con te. Non c'è la questione di doverselo tenere per te, che non ha un valore economico tale per cui tira un'avarizia, una, non so come dire. Perché poi secondo me è un aspetto veramente interessante, è legato al fatto che di per sé la ganja al grammo, anche in Italia e in Europa dove è illegale, non ha un costo così elevato, cioè non stiamo parlando di oro, cioè per dire l'oro costa 24-25 euro al grammo. La marijuana ne costa un quinto, magari un quarto, può arrivare a costare 10 euro al grammo, magari diciamo anche la metà, facciamo 12 euro al grammo, comunque è tanto. Però non è comunque una questione legata al valore che lo rende così raro. Ciò che lo rende raro, ovviamente, è il panorama legislativo che c'è intorno, che impedisce alle persone fisicamente di potersela creare o di trovarla comodamente. È comunque altissimo. Cioè, se tu guardi... Noi siamo abituati al fatto che non sia alto, ma è altissimo. È altissimo, perché stiamo parlando di una cosa che c'è un prezzo di produzione veramente bassissimo. Non so come dire, stiamo parlando di una roba che davvero qua l'hanno iniziata a fare, l'hanno iniziata a prendere a meno di un euro al grammo tranquillamente, facendoci cresta sopra. Per noi, non so come dire, i miei ragazzi del coltivo qua la vendono a 1,50 euro, perché proprio là ci spendono i materiali, mi pagano lo stipendio, ci vivo tranquillamente, ci pagano le tasse. Non è un'azione di prezzo di per sé. Ma io a questo punto infatti volevo lanciare una domanda al Melmo, perché mi interessava molto anche questa cosa. Appunto, cioè la questione è che sulla ganja il problema non è dato da quanto costa averne un grammo, che ci mette soprattutto l'ansia è derivata dal fatto che non lo puoi avere, non lo puoi coltivare, se la porti giù viene arrestato, certo. Quindi crea sto panorama di ossessione sulla gente, che poi crea le pessime, come si può dire, le pessime abitudini di consumo, per cui consumo, certo, tutto quello che trovo, il debito per averla, eccetera. Ma invece, allora, per quanto riguarda l'organizzazione economica, tu dicevi prima che lo Stato ha il monopolio e lo vende in farmacia, e cioè se tu lo sai, quanto ci sta guadagnando lo Stato dell'Uruguay, come si dividono i ricavi, hanno destinato i soldi che arrivano dalla ganja legale a qualcosa? Allora prima mi viene in mente una frase di un rapper spagnolo che dice io posso non fumare tutto il giorno e c'ho il fumo, che è una frase che io vedo verissima. Se io ce l'ho, posso stare tranquillamente senza fumare o fumare molto poco, perché effettivamente io non ho da fumare nella stessa situazione, magari impazzisco in tal, perché non sono sicuro poi di trovarla, non so come di riaverla, tranquillità comunque di averla. Quindi, guarda, vabbè, la questione economica, lo Stato, quello che ci guadagna, almeno poi a meno di magagne interne che non conosco, però secondo quello che è il regolamento, il guadagno va tutto investito nelle campagne di sensibilizzazione sul consumo, recupero e campagne contro il fumo. E in parte lo devono fare per pagare il debito pubblico. E però le banche statunitensi, le banche legate, diciamo, i fondi legati all'FMI che hanno prestato, in quale l'Uruguay è indebitato, adesso non più, e adesso tornerà a indebitarsi per un altro discorso, non accettare i soldi derivanti, nel loro regolamento c'è, cioè, che non accettano i soldi derivanti dal narcotraffico, e come narcotraffico intendevano anche una... allo Stato uruguayo, le banche. Chiedo scusa, Mene, devi ripetere un attimo perché ho dovuto, c'è un pappinato il telefono. Quindi se puoi ripetere un attimino da... Okay. Non vengono accettati i soldi dal narcotraffico e quindi hanno rifiutato anche i soldi che venivano dall'Uruguay, mi pare di aver capito. Niente, è finito così, è cercato un braccio di ferro su questa cosa, alla fine quei fondi lì tuttora non vengono accettati per il pago del debito. Quindi vengono reinvestiti all'interno dell'Uruguay in progetti di prevenzione, di formazione. Però appunto non sono nemmeno grandi guadagni, non è stato fatto per guadagno assolutamente. È stato fatto, anzi il prezzo è il più basso possibile rispetto alla produzione, perché lo scopo è che la gente non vada al narcotraffico, quindi l'erba di Stato ha una qualità più bassa dell'erba che facciamo con i club o che ci puoi fare tu in casa, senza dubbio. Per quella questione che dicevo anche dell'Olanda, che da una produzione più industriale, da un certo punto di vista, qualità più bassa, in più lo Stato uruguaio si assume le responsabilità del 50% di tutti i problemi derivanti da farmaci e prodotti che mette in vendita per costituzione. Quindi è tutto a dei dosaggi di THC molto bassi, genetiche molto basse, perché vogliono evitare che qualcuno stia male, che poi è un problema dello Stato, diciamo, che ha prodotto l'erba. E quindi ovviamente, diciamo, io la compro, non la comprerò mai, credo, perché comunque sia non è che è più simile quasi all'erba CBD dell'Italia che all'erba dell'Olanda, però allo stesso tempo è un'alternativa al narcotraffico, è sicuramente meglio del paraguayo di quello che arriva dal narcotraffico, da un prezzo più basso magari di quello che facciamo noi, non hai il problema di dovertelo coltivare, però a un prezzo più alto di quella dello Stato, quindi la persona che non ha soldi, ne ha molto pochi, che non è iscritta a un club e che non può coltivare, non arriva a comprare un narcotraffico, ma la sua opzione più economica è comprarla dallo Stato. Ok, una domanda, visto che hai rifatto il paragone con l'Olanda, che mi viene di fatti è questa. In Olanda c'è la limitazione, che però è, diciamo, arbitraria, che uno non può comprare più di 5 grammi alla volta in un coffee shop. Giorno. Però... potenzialmente sì. Io posso farmi il giro di 50 coffee shop, comprare 5 grammi l'ognuno e fumare ininterrottamente per settimane facendo così. Certo. Infatti volevo chiedere, lì in Uruguay ci sono delle limitazioni, sono, non so, gestite giornalmente, settimanalmente, mensilmente, come funziona un po'? Allora, questa è la parte da un certo punto di vista più critica della legge, nel senso che viene istituito, diciamo, il consumo non problematico come 40 grammi mensili, quindi che sia, qui per esempio in farmacia tu puoi comprare 10 grammi alla settimana e non c'è maniera di comprarne più, perché vai con l'impronta digitale, con la carta tessera sanitaria, ti viene rilevato che li stai comprando e puoi tornare solo una settimana dopo, non so come dire. Lo compri adesso che qua sono le 10.43 di venerdì, puoi andare a comprare delle 10.44 di venerdì prossimo. Sì, ok. Nel club è diverso, ci sono sempre il limite di 40 grammi settimanali, ovviamente il club è più informale, quindi c'è una parte formale, devi avere una tessera, viene dichiarato quello che vendi, quanto vendi, a chi lo vendi, però poi niente ti nega, cioè, non so come dire. Se io sono il proprietario del club e tu sei il socio, per quella relazione che ti ho detto molto informale, che a volte lavoriamo assieme, che poi c'è quella lì che volevo provare, dai, mollami un paio di quello, dai, bam, c'è un mio amico che aveva bisogno, non è scritto, mollami un po' di quello, insomma, il limite è molto più labile, non c'è nessuna impronta digitale, diciamo, da quel punto di vista. Quello è più al contrario, più la garanzia di avere 40 grammi mensili. Quindi, mentre che lo Stato non puoi andare oltre quello, il club ti dà la percezione, la certezza che perlomeno avrai quelli. Quindi, anche a marzo, nel periodo più buio, dove non c'è niente, perché è giusto prima di raccogliere, tu ci avrai comunque i 40 del club. Okay. Però poi deciderei di comprarli 5 una settimana, 15 la volta dopo. O per esempio in questo periodo di quarantena stiamo facendo una consegna mensile. E informare. Per la coltivazione è il punto più critico, perché non ho capito come è stato fatto il calcolo del numero di piante. Viene permesso un numero di piante, 9 piante si possono fare in casa per conto okay. tuo, però si possono raccogliere fino a 480 grammi, che sono 40 grammi mensili, 40 per 12. Ok, e quindi è un calcolo chiaro, troppo quadrato per un prodotto botanico. Non so come dire, se la stagione è una bomba con 9 piante ne fai molta di più, certo. Sì, 10 volte di più, e quindi diciamo, e soprattutto non è chiaro se appunto raccogli di più cosa dovresti fare, qual è il che tipo di infrazione stai commettendo, chi ti dovrebbe perseguire, da cui per esempio la polizia qui non si può entrare in casa per questioni legate alla marijuana in generale, c'è un istituto. Okay. C'è l'istituto di regolazione, c'è un istituto che si occupa della questione riguardanti l'erba, che può mandare gli incaricati e funzionari a controllare nel caso a sequestrare dei prodotti e a distruggerli. Però la verità è che questa istituzione non ha del personale, non so come dire, l'istituzione è più che altro quella che ti dà l'autorizzazione a coltivare, ti dà l'autorizzazione a aprire un club, ti dà l'autorizzazione a comprare dallo Stato. E gestisce un po' la parte amministrativa e di coordinamento, diciamo. Ma non ha dei funzionari che ti può mandare in casa, non ha quei tanti, non è che hai i fondi come per pagare gli agenti. Quindi, di fatto, quello è un limite che ha messo la legge, però non si capisce bene. Okay. Comunque, mi sembra, la mia percezione è che abbiano messo il numero, mettere un numero, ma non sia un vero interesse della legge verificare quanto raccolto. Scusami, giusto per capire se ho capito, quindi c'è un limite massimo di 9 piante per persona e un limite totale di ganja che uno può avere prodotto? Sì, all'anno. All'anno, che è 480 grammi all'anno. All'anno, esatto, esatto, è 40 per 12. Ok, e quindi praticamente, 12 piante, non 9. No, 9 piante ma 12 mesi. 9 piante a 12 mesi, quindi tu con le altre forme in generale puoi 40 grammi al mese, e quindi hanno fatto il calcolo che tu puoi raccogliere 40 grammi al mese, però in una volta sola, perché raccogli una volta sola nell'anno. Ok, ho capito, ho capito. Però non c'è chiarezza sul fatto che se magari ne produci di più, che per un caso te produci di più, non si è capito cosa devi farne, nel caso vabbè, va tutto in fumo. Quindi sì, poi non si è capito nemmeno se non si è capito nemmeno se sia davvero illegale di per sé averne prodotta di più, perché non è che ci puoi fare niente, non so come dire, tu non sai nemmeno quanto produci in verità fino a che non la pesi, non la fai seccare, non la togli, non so come dire. È una legge che evidentemente non ha tenuto conto di quello di cui stava parlando da quel punto di vista. Però sì, vabbè, diciamo, tra tutte le leggi al mondo fatte, nel senso, è già un passo avanti gigantesco, però questa parte qui giusta è stata fatta male, poi non ha degli effetti veri la gestione della cosa, quindi i cazzi, diciamo. Però è proprio una parte di quella che le persone, che gli attivisti che hanno partecipato al processo della legge, quello che viene criticato è un po' questa cosa di aver voluto mettere dei numeri, dei paletti o qualcosa, che dei numeri e dei paletti per sua natura non ce li ha. Ma e quindi poi, certo. Scusami, un'altra cosa, però almeno questa legge definisce che non puoi fare la piantagione, cioè non puoi a fare un campo da calcio di marijuana. Non senza autorizzazione. E poi puoi farlo, per esempio, puoi fare un club gigantesco, puoi farti dare l'autorizzazione dallo Stato, che non so come siano in verità i coltivi dello Stato. Però no, ovviamente no, non è chiunque può fare quello che vuole comunque. È una roba che ovviamente non so come dire, io non ho l'autorizzazione, non sono residente in questo momento e comunque sia non ho nessun tipo di problema a coltivare in casa mia, a lavorare, se mi ferma la polizia non mi fanno sicuramente dei problemi per avere dell'erba. Però è una cosa che vuole tenere... Non so come dire, vuole tenere poi, vuole regolarizzare una situazione che già c'era alla fine. È puramente questo. Quindi la grande cosa che sta introdotta sono il fatto che i club e le farmacie. Però la coltivazione è la stessa cosa di prima, per coltivare, facendoti le piante te, ovviamente non puoi fare la super piantagione per conto tuo. Certo. Beh, comunque diciamo che... piante, quello sì. Io trovo delle similitudini rispetto alla situazione che c'è in Italia, ma anche delle differenze. Cioè, penso a tutte le varie argomentazioni che vengono fatte sia a favore della legalizzazione che contro la legalizzazione. Nel senso che in Italia anche qui c'è una situazione in essere, anche se è non legale, certo. Nel senso che un sacco di gente fuma e... molta meno, ma comunque un po' di gente anche si coltiva le sue piante, diciamo, all'oscuro della legalità. Però, cioè, una delle argomentazioni più forti di chi vuole la legalizzazione in Italia è che sai quanto ci può guadagnare in termini di introiti, di tasse, lo Stato? È altro che di qui di là potremmo risparmiare. È un discorso che a me non piace molto. No, sì, sono d'accordo. Cioè, quello che dicevi tu è che lì si è tolto mercato al narcotraffico, e qui sarebbe alla mafia. Però non è che lo Stato ci guadagni chissà che cosa. Certo, magari i club fatturano e pagano delle tasse, però non in maniera esagerata. Mentre, ad esempio, cosa succede in Olanda, una bella fetta dell'economia olandese dipende da quello. Voglio dire, in Uruguay dalle vacche, ma non tanto da... Sì, no, ti dico, secondo me ovviamente c'è un mercato comunque che spinge, perché sicuramente, per esempio, tutto il mondo della coltivazione qui ha preso una... tutti coltivano, quindi non so come dire, ci sono un sacco di ragazzi, per esempio, che fanno la loro terra, un sacco di gente che lavora in questo, che lavora non solo nel coltivo, ma anche nella produzione di fertilizzanti, di prodotti, sì, certo. Basi. Però non penso che cambi di molto le finanze. Non è il PIL. Non è il PIL. Però diciamo, la questione è, hanno ridato il prezzo che effettivamente dovrebbe avere, il valore che effettivamente dovrebbe avere. Gli hanno tolto un po' di quella mito che non ha senso che abbia a criminale. Adesso qui è un mito, è una cultura, come potrebbe essere la cultura del vino in Italia. Assolutamente paragonabile, però senza non so come dire, senza cosa del doversi, del che sia qualcosa di elitario, di costoso, di sì, certo. Non so, hanno tolto il discorso economico, che è una roba che a me mi piace, che stiamo parlando di davvero di un qualcosa di che diciamo l'aspetto economico dovrebbe essere totalmente secondario, sì, rispetto, certo, al diritto di ciascuno di poter star bene come meglio pensa. Sì, diciamo che secondo me questo discorso, diciamo, il mio spirito socialista mi dice che dovrebbe valere per il 99,9% delle cose che riguardano il benessere e la vita delle persone. Certo. Sicuramente la differenza tra l'Olanda, la Spagna e l'Italia e lì è proprio forse una mentalità e un sistema economico, organizzativo, produttivo diverso che c'è dietro. Sì, diciamo che adesso giusto sta cambiando questa cosa, quindi vabbè, adesso è tutto in stand by ovviamente per la pandemia, però già sentivo parlare per esempio del ministro che già avevano le prime istituzioni di governo, avevano messo dentro il discorso comunque del fatto che già che abbiamo legalizzato a questo punto, abbiamo anche i turisti, se i nostri cittadini hanno il diritto, allora anche, quindi diciamo, secondo me già vogliono aprire un'ottica più liberista, certo, mercato anche turistico. cioè, per monetizzare. Però diciamo quello che mi piace della cultura di Wai è che questo non è un business qui, qui è davvero una passione e una questione culturale, non so come dire, di sociale, di condivisione. Allora, io purtroppo tra 5 minuti inizio a lavorare, quindi dovrò lasciarvi. Vi lascerò con una lacrimuccia pensando a tutte queste belle cose. Posso dire una cosa solo? Vai. In verità in Italia c'è una produzione di Stato, questa è la cosa più ridicola di tutte. In Italia c'è una produzione di Stato di erba legale, che viene coltivata dall'esercito. E questa gestione è stata talmente demenziale che non si è voluto dare accesso alla gente che effettivamente sa coltivare, ma si è voluto dare la gestione ai militari che dal nulla sono guardati probabilmente tutorial su YouTube, immagino, e hanno provato a coltivare l'erba medicinale, che sarà prodotta a un prezzo di produzione di più di 200 euro al grammo, per un prodotto di qualità, secondo la gente che ne ha bisogno, bassissima. È stato prodotto pochissimo, a un prezzo spropositato e di qualità bassissima. E la questione è anche quella. La produzione di Stato non per forza di qualità, deve essere la produzione di Stato con gente che sa quello di cui si parla. Certo. Beh, perché siamo proprio una barzelletta sull'esercito, incredibile. Soprattutto deve essere soprattutto per una questione medica, perché qui stiamo parlando davvero di gente che... Cioè, l'uso farmaceutico... Se ci fosse un uso farmaceutico, se si potesse, diciamo, con la illegalizzazione della cannabis creativa, avere un uso farmaceutico e terapeutico serio, regolamentato, fatto bene, disponibile a tutti, appoggerei questa cosa. Però davvero da noi è ridicolo come sia legale, per esempio, la questione terapeutica, ma di fatto sia impossibile arrivare ad avere un prodotto di qualità, arrivare a un prodotto con un prezzo decente. Molta gente deve ricorrere all'illegalità anche per una cura che di per sé è legale, riconosciuta dalla legge italiana. Certo. Comunque, secondo me è molto interessante il fatto che anche di un argomento così, diciamo, come quello della legalizzazione della cannabis, eccetera, a seconda cioè ci si può fare anche un discorso prettamente politico e di organizzazione della società. Cioè che a seconda del modo in cui la società e l'economia è organizzata, anche questa cosa prende delle pieghe diverse. Secondo me, al di là di tutto, è molto interessante questa cosa. La verità è che la storia della io vi devo proprio lasciare, perché tra 2 minuti di ricomincio a lavorare. Sei un servo del lavoro. Lo so, purtroppo è così. Quindi io vi saluto con la lacrimuccia, e se voi andate avanti sono felicissimo. Ho messo Guglielmo come posto. In verità però posso andare avanti con Guglielmo, può farmi le domande incomode. Non l'ho sentito. Io intanto vi saluto. Ciao Cesa! Ciao Cesa! Ciao a tutti e a tutte, è stato un vero piacere. Ciao. Ok, Gulli, ora inizia quella parte dove parliamo male di Cesa. Esatto, adesso parliamo male di Cesa e tutte le cose che fa. In realtà purtroppo anche noi qua siamo richiamati ai nostri altri impegni sulla questione delle spese, eccetera. Quindi tenderei anche a ringraziarti e a mandare. A questo punto però manderei ancora nella registrazione 2 canzoni. La prima è quella che ci hai chiesto tu, che è la Comanchera dei Comanchera, non so come si dice perché non so lo spagnolo. Comancheria, perfetto, l'avevo detta giusta allora. Los Chicos del Maíz, e poi manderai una canzone di un rapper locale, appunto, che riguarda la delega. Magari ti piace anche a te questa canzone. Ne vediamo prima una poi l'altra, va bene? Sì, un po' più cazzo il tipo, però sì. Dai, un bravo ragazzo, dai, l'ho conosciuto, era un bravo ragazzo. È ancora un bravo ragazzo. Va bene, allora, dai, carissimo. Ciao, è stato un piacerone. Fai bravo. Ciao, Ne. Anche voi. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ok, allora abbiamo salutato i nostri 2 fantastici ospiti, devo abbassare un po' il volume, sennò rientro mi spacca le orecchie. Ci ascoltiamo adesso Comancheria dello Chico del Maíz e poi a seguire una bellissima canzone del Prode Melmo, che non ha voluto ammetterlo fino alla fine. Ma prima ci ascoltiamo il pezzone. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién? De todos. Pues eso me convierte... ¿Un enemigo? No. Me convierte en Comanche. Comanchería es un modo de vida. Atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de espanto. Abajo la propiedad, arriba la golfería. Saber que estamos vivas. Una vida decente con derechos y garantías. Y sin horarios. Vivan las Kellys, muera el notario. El propietario, el trepas, el parásito. El que se pasa el día en redes buscando casito. Vivan los clásicos, mueran los mitos. No más segundas partes, no quiero secuelas. No más fanáticos, yo quiero oyentes críticos. Montemos una rave en el jardín de la zarzuela. Que rule el ácido, que empiece el rito. Cojamos a la vida y démosle candela. El cine español, que se joda por tibio. Vendido al capital por dolonchas de campo frío. Estope estómagos agradecidos. Que gobierne el Ceci. Dani Rovira no es gracioso, es un imbécil. Rafa Nadal tiene retraso. Como Almeida, Carapolla y Díaz Ayuso. Tú lo haces bonito, yo fantástico. Dios salve a la reina y a su cirujano plástico. Dos hermanos contra el mundo. Retales de una vida. Un sistema moribundo. Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo. El tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo. Comanchería, Comanchería. Comanchería es un canto a la rebeldía. Contra el desencanto en la España vacía. Es la guerra fría que se libra el día a día. Contra la burguesía que roba tu plusvalía. No somos mercancía, somos comanches. No son molinos, mira, luchamos contra gigantes. Piedras y gasolina, contra balas y tanques. Verdad contra mentira, humanos y replicantes. Y si mañana todo arde, cantando espero a la muerte como Miguel Hernández. Apretado en los dientes, decidida la barba. Mi último trago con Chabela Vargas. Basta, que ya no bailo son de esa comparsa. El pueblo quiere pan, trabajo, quiere casa. Prometéis libertad, prometéis democracia. Como en el juicio del proceso, oléis a represión y farsa. Comanchería realidad. Vive el momento sin tiempo de planificar. Te dicen crea una familia, cómprate un hogar. Pero este sueldo de birria ni permite soñar. Si no podemos jugar, pues nos drogamos. Si no nos dejan trabajar, está claro, pues robamos. Ya no compramos ese discurso refrito. Comancherías, azarías, ahorcando al señorito. Dos hermanos contra el mundo. Retales de una vida, un sistema moribundo. Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo. El tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo. Comanchería, Comanchería. Torniamo in diretta soltanto per annunciare la prossima canzone. Stato Rivoluzione, Rap Caverna Posse. Così ho sbagliato a premere sul deck, così ho alzato il volume e così va. Opinioni e non bada come ti poni. Non cambio il mio linguaggio che se cambio situazioni. Sempre vero, decise con i cacca zango a fianco. Rivendico ogni atto e di ogni idea ne faccio vanto. Siamo tecnici e teorici, politici più dei comizi che teniamo sotto THC prima che il beat inizi. Vizi, in periodo di crisi da soddisfare. I tizi presi bene contro i tizi presi male. Illegale se serve, la mia posse fa più curve. Resiste alle aggressioni come le milizie curde. Continua a celebrare chi ha sparato a Re Umberto. Continua ad andare avanti a pugno chiuso e cuore aperto. Resiste agli urti e ai furti, ai furbi, alla merda qualunquista. Su cui ti masturbi, ascolta gli urli ai limiti dell'urbe. Crea pezzi torbi e stilosi da le turbe, sempre conflitto forzato contro lo Stato, in stato alterato, poco convinti dal creato, marcati a vista da logiche di mercato, spingo un rap socialista che esce fuori dal tracciato, hip hop purista però puramente a caso, persuaso che appoggiare il capitale sadomaso, pirati senza bende, terroristi senza bombe, liricisti pronti a riesumare gli alieni dalle tombe, RC, Soviet, compare, autogestione dei mezzi di produzione musicale, schierati contro i privati, ferrati sulla materia, la fiducia sul job sack, voto Siberia. Non è questione di estremismo o propaganda. Non è che la questione naturale che è d'odiare chi comanda. Perché ora che rodono il futuro e che ci espropriano il presente, mi chiedono chi voto, voto Gramsci presidente. La delega altera la percezione. contro ogni oppressione, auto-organizzazione. Cresco senza stato né religione, cresco con lo stesso groove che muove la nazione. La delega altera la percezione, pratiche di autogestione immuni ad ogni repressione. Cresco senza stato né religione, cresco leggendo stato e rivoluzione.